piace tutti. La paura è pronta in tavola, la ricetta è un mio segreto. Ingredienti originali, mischiati insieme. Cattiveria ed arroganza, una spruzzata di mistero. Scalda tutto a fuoco lento in una notte senza luna. Stai attento a non scottarti e gusta questa mia specialità. Tu sei più bruciante di mille soli, più agghiacciante di sei geloni. Sono Fuscus, qui comando io. Wow, tu sei più tuonante di mille tuoni, più piovoso di sei uragani. Sono Fuscus, questo regno è mio. Wow, e allora adesso cuciniamo questo gustoso minestrano che a tutti i popoli la pancia riempirà. E dopo che avranno e tutti mi avranno ubbidito, i loro simboli potere mi daranno e il mondo sarà mio. Sguardo strabico e andatura da trapiccolo, aiutante del più perfido, ubbidiente e servizievole. Son sempre in volo su e giù dalla montagna con la pioggia che mi